non c'erano TV come di Nembo Kid, né radioattive come Nubia Chernobyl. C'era l'uomo qualunque, sostenuto dal fronte dell'uomo qualunque, nella schiena dei partiti a fondo le unghie. Io non sono di destra né di sinistra, sono un uomo qualunque, e lo Stato è demagogo, nel sistema bipolare non mi ci ritrovo. Oh, ferma tutto, devo aver avuto un herpes, dato che questo sfogo non mi è nuovo. Vivo decenni dopo nello stesso clima che su questo fuoco getta più benzina. Ma non c'è più l'uomo qualunque, tutti sono qualcuno, tutti sono in vetrina. Qualcuno è il primo partito di questo paese. Grazie e arrivederci. Bene, adesso Mister e Miss faranno del Parlamento la Diaz del Blitz. Non distinguono il foglio dal manifesto, del resto io non distingo Libero da Gin Fizz. La democrazia fa la fine del VIP che ritrova KP sull'uscio dell'hotel Ritz. E siamo tutti nelle mani di chi? Di questi che per diventare qualcuno cambiano nick? Sì, di fronte dell'uomo qualcuno a voti al cubo. Mamma che dolore al culo, lo appuro. Se questo è uno scherzo manca di che mal rovescio, stiamo seppellendo nell'endemol generation. Devo aspettare di perdere il mio diritto di voto per guadagnare il diritto alla nomination? Ciao capa, sono Luigi delle Bicocche. Hai visto che schifo? Te l'avevo detto che questi bastardi vincevano le elezioni. Vaffanculo.